Il gruppo Lode mi ha preso la lettera, ha detto dopo il primo brano voglio che vi fermate. E si sono fermati e se ne stanno anche andando. Va bene così per voi? Per quanti non va bene? Va bene, siamo nel posto giusto, è la sera giusta e va bene che non ci va bene. Vogliamo però fare un applauso e liquidarli lo stesso. Grazie ragazzi. Potete davvero andare. Tu no, tu rimani con me. Fantastico Giuseppe. Io voglio parlare di adorazione stasera. Ed è per questo che voglio ribaltare un po' l'ordine di questo programma, perché è opportuno che noi parliamo prima di adorare, di adorazione, in modo tale che quando lo facciamo, quando adoriamo, lo facciamo in una maniera più sentita e più consapevole. Quindi voglio invitarvi a salutare qualcuno, saluta qualcuno che ti sta vicino, dagli il benvenuto, abbraccialo, digli è una serata evidentemente speciale e ci possiamo accomodare. Che bello essere qui, che bello essere in famiglia. Un benvenuto a tutti voi, anche a chi è qui per la prima volta. Vogliamo fare un applauso a chi ci è venuto a trovare per la prima volta questa sera. Sarei tentato di vivere anch'io il momento mio di gloria cantando come ha fatto il pastore Stefano la scorsa settimana. Quanti c'erano hanno visto il suo messaggio? Vi consiglio di andarlo a vedere su YouTube, è stato fantastico. Abbiamo scoperto nuovi talenti in mezzo a noi. Presto vedremo Mario guidare la lode adorazione in chiesa col suo andare, andare, andare, andare. È l'unica cosa che sa cantare, però ci è piaciuto tanto. Io voglio parlare di lode adorazione perché riflettevo in queste settimane su quello che ci sta davanti. Fra 4 giorni comincia la conferenza. Quanti sono consapevoli che fra 4 giorni diamo l'inizio a Venga il tuo regno? Conferenza Ecclesia 2018, che detto così no, ha più enfasi. Siamo contenti di questo, fra 4 giorni. E pensavo in queste settimane al programma di questa conferenza. E poi ho cominciato a pensare anche ai nostri incontri. E se c'è una cosa che ci accomuna come popolo di Dio, come Chiesa, ogni qualvolta noi ci riuniamo, c'è qualcosa che facciamo regolarmente. Che cosa facciamo regolarmente? Adoriamo. Lodiamo e cantiamo, lo facciamo con i canti, no? Ci piace la musica e ci piace farlo con tutto il cuore, esattamente come ci viene descritto di fare nella parola di Dio, nella Bibbia. Ci sono salmi su salmi che ci invitano ad adorare con una specificità che non lascia spazio a interpretazioni. La Bibbia è chiara, noi dobbiamo adorare il nostro Dio come gli si addice, nella maniera che Lui indica. Naturalmente non è l'unica cosa che facciamo sempre, preghiamo, annunciamo la parola, l'annuncio della parola è fondamentale, ogni incontro noi mettiamo al centro non il bel messaggio di una persona carismatica, ma mettiamo il messaggio più importante della storia dell'umanità, che è il messaggio che noi attingiamo e otteniamo nella lettura della parola di Dio, la Bibbia. E quindi io stasera voglio annunciare la parola, voglio leggere la Bibbia con voi, ma voglio, come ho già detto, parlare di adorazione, di lode, e dell'adorazione e della lode fatta attraverso i canti. Perché, vedete, siamo qui e ci riuniamo e incominciamo ogni nostro incontro in questa maniera. Sempre facciamo musica, sempre lodiamo, e in questi 3 giorni avremo l'opportunità di lodare il Signore e adorarlo in una maniera ancora più prolungata. E avremo l'opportunità di fare festa a Lui anche con una strumentazione particolare, speciale. Avremo il supporto di un impianto molto più grande, avremo un bellissimo video wall, avremo delle bellissime luci. Però io vorrei che noi comprendessimo il senso e la ragione per la quale noi cantiamo. E per farlo voglio portarvi alla storia che conosciamo tutti molto bene, perché è scritta in tutti i Vangeli. In tutti i Vangeli c'è scritta questa storia ed è l'ingresso trionfale di Cristo Gesù a Gerusalemme. Ve lo ricordate? Lo vogliamo leggere insieme dal Vangelo di Luca al capitolo 19, dal versetto 29. Qui, aprendo la Bibbia, leggiamo che come fu vicino a Betfage e a Betania, presso il monte detto degli Ulivi, mandò due discepoli dicendo: andate nella borgata di fronte, nella quale entrando troverete un puledro legato, su cui non è mai salito nessuno, slegatelo e conducetelo qui da me. Se qualcuno vi domanda perché lo slegate, direte così: il Signore ne ha bisogno. Evidentemente bastava questa indicazione per ottenere questo puledro. E poi aggiunge: quelli che erano stati mandati partirono e trovarono tutto come egli aveva detto loro. Mentre essi slegavano il puledro, i suoi padroni dissero loro: perché slegate il puledro? Essi risposero: il Signore ne ha bisogno. E lo condussero a Gesù, e gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Ascoltate ora quello che c'è scritto. Mentre egli avanzava, stendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del Monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli, con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano viste, dicendo: benedetto il Re che viene nel nome del Signore, pace in cielo e gloria nei luoghi altissimi. Alcuni farisei, però, tra la folla, gli dissero a Gesù: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli rispose: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. Le pietre grideranno. Sapete perché Gesù ha detto questo? Perché Gesù era consapevole che l'accoglienza che gli stavano riservando era l'accoglienza che spettava a un re degno di adorazione, non un uomo qualunque. E chiunque ha riconosciuto Gesù quale re degno di lode e adorazione ha fatto questi gesti di adorazione, si è liberato del proprio mantello, lo ha messo a terra, lo ha infangato, lo ha sporcato, ha lasciato che il puledro lo calpestasse, ha raccolto dei rami, ha gridato a Dio, ha lodato il suo nome, non si è vergognato. Perché? Perché erano discepoli di Cristo e perché riconoscevano che Cristo non era un uomo qualunque, era il Re, l'Onnipotente, il Dio fattosi uomo, venuto sulla terra per salvare l'umanità. Ed è per questo che hanno riservato a Lui questo ingresso trionfale a Gerusalemme. E Gesù risponde ai farisei dicendo: se non lo dovessero fare loro, vista la mia condizione, vista la mia posizione, visto chi io sono, io vi dico che le pietre griderebbero, perché io sono degno di lode e di adorazione, perché io sono il Re, perché io ho fatto grandiose cose per la gloria del mio Padre. Infatti tutto questo è stato largamente anticipato in una maniera anche minuziosa e dettagliata già dal profeta Zaccaria 500 anni prima. Pensate un po', 500 anni prima che tutto ciò accadesse, un profeta ispirato da Dio ha scritto queste parole, ha dichiarato questa profezia e ha detto così: esulta grandemente, o figlia di Sion. Zaccaria capitolo 9 versetto 9. Manda grida di gioia, o figlia di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te. Egli è giusto e vittorioso, umile, in groppa a un asino, sopra un puledro, il piccolo dell'asina. Io farò sparire i carri da Efraim, i cavalli da Gerusalemme, gli archi di guerra saranno distrutti. Egli parlerà di pace alle nazioni. Il suo dominio, ascoltate ora, il suo dominio si estenderà da un mare all'altro e dal fiume sino all'estremità della terra. Questa è la profezia. E si è adempiuta nel momento in cui Gesù ha preso quel puledro, è entrato in Gerusalemme e si è lasciato adorare perché riconosciuto quale quel re che avrebbe stabilito un nuovo regno. Stiamo per vivere 2 giorni e mezzo di conferenza con la tematica Venga il tuo regno. E sapete, è così fondamentale comprendere che ogni qualvolta noi parliamo di un regno, noi stiamo parlando di un governo, di un dominio, stiamo parlando di un re, di una monarchia. E il re di questo regno è Cristo Gesù. Noi siamo parte del regno di Dio perché riconosciamo il re Cristo Gesù. Ed è fondamentale che noi comprendiamo che a seconda del rango di determinate persone dobbiamo rivolgerci a quelle persone in una maniera diversa. Mi spiego meglio. Se abbiamo a che fare con una persona anziana, noi diamo il rispetto che una persona anziana merita. Se abbiamo a che fare con un uomo in divisa, con qualcuno dell'arma, noi diamo rispetto non alla persona, ma alla divisa che indossa. Se noi abbiamo a che fare con un governatore di qualsiasi tipo, noi diamo il rispetto per la carica che ricopre. Voglio farvi vedere una foto, questa è la foto della regina Elisabetta, quando ha incontrato un ministro del Canada. Vedete l'attitudine, vedete l'inchino, vedete il fatto che questa donna approccia la regina assicurandosi di abbassarsi al di sotto del suo livello. E sapete, c'è proprio un codice che va rispettato. Non è che questo primo ministro abbia deciso di comportarsi in questa maniera nei confronti della regina Elisabetta. C'è un codice comportamentale molto dettagliato e ben descritto. L'ho cercato su Google, lo potete cercare anche voi. È molto interessante. Dice che puoi stringere la mano della regina solo nel momento in cui è lei a tenderla verso di te per prima. Incredibile. Il codice comportamentale nell'approccio con la regina dice che devi necessariamente rivolgerti a lei chiamandola maestà. Non la puoi certamente chiamare Elisabetta. Qualcuno ti verrebbe a prendere e potresti anche entrare in una penale perché ti stai rivolgendo a una regina. È tutta un'altra serie di norme, incredibile, molto interessante. Puoi parlare solo dopo che lei ti ha rivolto per primo la parola. Puoi mangiare solo dopo che lei ha cominciato a mangiare. Ti puoi sedere a tavola solo dopo che lei si è seduta per prima. In ogni occasione, in ogni ambiente, in ogni circostanza, mai e poi mai puoi darle le spalle. E per qualsiasi appuntamento, vedete come ho studiato bene il... chi lo sa, forse un giorno il Signore mi sta preparando a incontrare la regina Elisabetta. In qualsiasi momento, nel momento in cui tu hai un appuntamento, questo è interessante, questo mi ha fatto riflettere. Se hai un appuntamento con la regina, prendete appunti nel caso dovesse capitare a voi. È necessario che voi arrivate largamente in anticipo rispetto a lei, perché è cosa disonorevole che lei attenda te a quell'appuntamento. Stiamo parlando di una regina, di una donna, di una regina della nostra statura. Noi dobbiamo renderci conto che quando abbiamo a che fare con Gesù, non abbiamo a che fare solo con il nostro miglior amico, ed è amico, è importante questo passaggio, seguitemi, perché la tua rivelazione di chi Cristo è determinerà il tuo rapporto e la tua relazione con Lui, e determinerà quello che otterrai da Lui. Lui dice che è il tuo migliore amico, ed è sicuramente il tuo amico, puoi rivolgerti a Lui come il miglior amico, il compagno di viaggio, la persona con la quale ti puoi confidare su tutto quello che vivi, e nessuna cosa è superflua per lui o non sarà di suo interesse. Qualsiasi cosa, lui sarà interessante a qualsiasi cosa tu vivrai e qualsiasi cosa tu gli dirai. Ma lui non è solo il nostro miglior amico. Lui è anche il primogenito, è un nostro fratello. un fratello maggiore, sapete che c'è un rapporto diverso col fratello maggiore, io ne ho due e vi posso dire tante cose a riguardo. Lui è il fratello maggiore, non è lui che ha bisogno di imparare da me, ma sono io che ho bisogno di imparare da lui. Lui è il nostro Salvatore, lui è il nostro Signore, lui è il nostro Padre e ci insegna a pregare rivolgendoci come se lui fosse il Padre, come se lui fosse il nostro papà che si prende cura di noi. Fratelli e sorelle, Chiesa, non dobbiamo dimenticare il fatto che abbiamo anche a che fare con il Re dei Re, il Signore dei Signori, colui che è degno di gloria e di onore, di prostrazione e di arresa e di sincera adorazione. È per questo che chiunque ha riconosciuto Gesù in quella occasione a Gerusalemme, per i suoi miracoli, per i suoi atti, per le sue parole, si è abbandonato in adorazione. E da quel momento in poi, nei secoli e nei secoli e nei secoli, la Chiesa ha continuato ad adorare il Re, perché ha avuto rivelazione di chi Lui è e quello che Lui ha fatto. E se noi oggi ci riuniamo e abbiamo una parentesi nella quale facciamo musica e facciamo adorazione, noi dobbiamo comprendere a chi ci stiamo rivolgendo e dobbiamo riscattare il valore dell'adorazione, perché altrimenti questo tempo è superfluo e i 3 giorni che vivremo alla conferenza saranno superflui per tutti i tempi di lode e adorazione che abbiamo previsto, se non comprendiamo la reale ragione per la quale facciamo musica, per la quale cantiamo, per la quale alziamo le nostre mani, per la quale danziamo alla sua presenza, per la quale ci inginocchiamo davanti a lui. Noi abbiamo a che fare con il Re dei Re, e quando noi preghiamo venga il tuo regno, quella preghiera è efficacia solo nel momento in cui tu riconosci che hai a che fare con il Re. C'è una storia nella Bibbia che credo voi conoscete molto bene, in 2 Samuele, la maggior parte di noi ha letto quella storia, in 2 Samuele 6, dove un altro re, il re Davide, ha perso la faccia, ha perso la dignità e si è lanciato in una adorazione sfrenata, letteralmente. Perché? Che cosa succedeva? Si stava portando l'arca, simbolo e mezzo della presenza di Dio nel popolo di Israele, e la si stava trasportando da una casa a Gerusalemme, e Davide per questa manifestazione così importante ha cominciato a lodare in una maniera sfrenata davanti a tutto il suo popolo, a danzare, era mezzo nudo, si è umiliato completamente perché conosceva il valore dell'adorazione. E anche in quell'occasione, come a Gerusalemme, c'è stato chi ha avuto da ridire, chi è rimasto lì ad osservare, chi è stato lì a giudicare, chi è stato lì a bocciare quello che veniva fatto da Davide, la sua stessa moglie. E alla sua critica Davide risponde così, alla critica di sua moglie dice: l'ho fatto davanti al Signore. L'ho fatto davanti al Signore, lo dice in 2 versi, in due versi diversi. Vi leggo tutto. L'ho fatto davanti al Signore che mi ha scelto invece di tuo padre, di tutta la sua casa, per stabilirmi principe di Israele, del popolo del Signore. Sì, davanti al Signore, di nuovo lo ripete, sì, davanti al Signore ho fatto festa. E aggiunge: anzi, mi abbasserò anche più di così e mi renderò umile ai miei occhi. Per adorare il nome del Signore. Vedete, l'adorazione ha senso e ha valore nel momento in cui noi ci rendiamo conto a chi la stiamo offrendo. E a chiunque noi offriamo la nostra adorazione, diamo il diritto di avere autorità e governo sulla nostra vita. Se tu adori i tuoi soldi, dai il diritto e l'autorità ai tuoi soldi di controllare i tuoi stati d'animo, le tue giornate e le stagioni della tua vita. Se tu adori una relazione, qualcosa di caro, qualsiasi cosa c'è su questa terra, quell'affezione, quell'adorazione, quel tuo prostrarti davanti a quella cosa ti porterà ad essere dominato da quella cosa. Ed è per questo che è importante l'adorazione, perché è quell'unico mezzo per eccellenza che ci porta a dire a Dio: sei tu in autorità sulla mia vita, è a te che do il diritto di essere il mio re, è te che voglio al primo posto, e sono disposto a perdere la faccia, a umiliarmi, ad abbassarmi, purché tu sia innalzato. E c'è come una forma di proporzione: più tu comprendi che nell'adorazione dai il diritto a Dio di essere re nella tua vita, più Lui si manifesta in potenza e in autorità. E sapete perché lo posso dire? Non solo per esperienza personale, potrei raccontarvi di diverse storie. Ricordo una in modo particolare, una stagione buia della mia vita. Venivo in chiesa, pregavo, leggevo la Bibbia, cercavo di uscire da questa depressione, da questo tunnel buio, scuro, fin quando nella mia stanzetta mi ricordai di una storia della Bibbia. Presi un CD, lo misi e con ogni sforzo e senza provare nessuna emozione cominciai a lodare il Signore saltando e danzando, non perché ero mosso emotivamente dalla musica che ascoltavo, ma perché avevo l'esigenza di adorare e ridare a Dio l'autorità sulla mia vita, e in quel momento Dio mi ha liberato. Sono uscito, ho visto la luce, è entrata la gioia nella mia vita. E non è solo mia esperienza, conoscete la storia di Paolo e Sila? Erano a mezzanotte nel buio di un carcere romano, nulla a che fare con i carceri moderni, nel buio di un carcere romano, e c'è scritto anche che erano nella parte più profonda. Non solo, avevano dei ceppi alle loro caviglie, erano stati torturati, avevano dolori nel loro corpo, era mezzanotte, avrebbero avuto tutto il diritto di dormire o al massimo pregare. E loro che fanno? In Atti 16 noi leggiamo al versetto 25: verso mezzanotte Paolo e Sila in preghiera cantavano inni a Dio mentre i carcerati stavano ad ascoltarli. E io mi chiedo, non avrebbero potuto pregare? Non era altrettanto efficace? Non avrebbero potuto, che ne so, citare a memoria dei versi? Non sarebbe stato altrettanto efficace? Evidentemente Paolo e Sila conoscevano la potenza che c'era nell'adorazione e hanno afferrato l'opportunità in quel momento a mezzanotte di liberarsi da tutto ciò che cercava di mettere in loro depressione, tristezza, amarezza, sconforto, e hanno cominciato a cantare. Fratelli, ho citato storie di uomini in autorità, il re Davide. Ho citato la storia di uomini che erano violenti, che erano pieni di carattere, come l'apostolo Paolo. Questi uomini hanno perso la faccia. Davide ha detto: io ho umiliato me stesso davanti ai miei stessi occhi, pur di cantare, danzare. Fratelli, danzare. Perché dico fratelli? Perché lo so come siamo fatti noi uomini. Abbiamo corazze su corazze e su corazze e su corazze, non ci rendiamo conto che in questa maniera, assecondando quelle corazze, stiamo permettendo al diavolo di derubarci della possibilità di essere veramente degli uomini vittoriosi, veramente degli uomini in autorità, perché tutta l'autorità che noi possiamo avere è un'autorità delegata. E Dio decide di dare autorità a coloro che scelgono di abbassarsi, perché c'è scritto nella parola di Dio che tutti coloro che si abbassano saranno innalzati e coloro che si innalzano invece saranno umiliati. Ti fa vergogna alzare le tue mani, cantare a Dio, inginocchiarti, saltare alla sua presenza? Io ti voglio avvertire con tutta l'urgenza che vivo nel mio cuore, nel tuo orgoglio, nella tua corazza, stai perdendo l'opportunità di una vittoria che Dio ha in mente per te e che puoi solo ottenere attraverso la lode e l'adorazione sfrenata di Davide. Riprendi il privilegio di lodarlo. Lodare il Signore non significa essere guidati sentimentalmente da un gruppo di persone. Questo non è un concerto, può assomigliare, è vero. Abbiamo le luci, abbiamo chi è qui sopra con la sua band, abbiamo bellissime persone che hanno anche il look, no, di artisti, di rockstar. Possiamo mettere qualche foto, che so. Questo è un audience che forse regia, questo audience funziona Baglioni, dai, mettiamo Baglioni, no? A quanti piace Baglioni in questa stanza? Lo potete alzare le mani, eh? Non succede niente. Ho azzeccato bene. Baglioni, no? Le luci, la musica, i musicisti, la postura giusta. Oppure, vediamo, devo guardare un po' le facce per rendermi conto con chi è che ho a che fare. Vedo qualche giovane. Vasco? Vogliamo vedere Vasco? Vediamo Vasco, no? C'è qualcuno a cui piaceva? Ci sono dei rocchettari in mezzo a noi, no? E a volte abbiamo, no, qualcuno, Michael ci prova tanto qui con la sua chitarra e il giubbottino di pelle, no? E suona la sua chitarra. Ed è tutto molto bello perché in una qualche maniera noi riusciamo a connetterci con il mondo esterno e a far capire che non siamo dei bigotti religiosi, ci piace la musica moderna, ci piace la musica contemporanea, ma possiamo cadere nell'errore di interpretare tutto come se fosse un concerto. E sapete cosa hanno i concerti in comune? I concerti hanno in comune questo, che hanno successo nel momento in cui l'esibizione è fatta bene e c'è un buon talento. E questo sarebbe una tragedia per noi, Chiesa. Perché è vero, abbiamo dei talenti meravigliosi, ma a volte siete d'accordo con me che le esibizioni non sono proprio ottimali, non sono perfette, impeccabili. Siete d'accordo con me che alcuni brani non sono poi un granché? Non voglio offendere nessuno, a me piacciono tutti i brani che vengono scritti in questa chiesa, tutti, dal primo all'ultimo, qualcuno più, qualcuno meno, però magari a te non piace nessuno dei brani che noi scriviamo e che cantiamo. Ma non cadere. Un amen fuori luogo. Nel posto sbagliato. Spero che nessuno abbia detto amen nel proprio cuore con Pino. Però è così, può diventare un'esibizione, è vero. E alla conferenza lo potrà ancora essere di più. Avremo più fari, avremo un video più grande, avremo un'amplificazione maggiore. Possiamo lasciare che l'adorazione dipenda da un'esibizione. Sapete cosa faccio io quando sono qui in prima fila ad adorare? Nel momento in cui io mi rendo conto che sto ascoltando una nota sbagliata, c'è una pausa di silenzio di troppo che mi sconcentra, mi porta ad aprire gli occhi, a guardare la band, ricordo a me stesso, questo è il momento in cui io devo scegliere di adorare. E in quel momento, quando me lo ricordo, non è sempre vero, ma quando me lo ricordo faccio una cosa, chiudo i miei occhi, alzo le mie mani e comincio a pregare. A dire, Signore, io sono qui non per assistere a una bella o brutta esibizione, non per ascoltare i volumi se sono alti o bassi, se le luci vanno bene o non vanno bene, se la grafica è opportuna o meno opportuna, io sono qui per adorare te che sei il mio re. E questi 20 minuti a mia disposizione non me li farò rubare da colui che mi vuole distrarre. Perché la distrazione è un furto. Abbiamo un'altra artista, se non ricordo male, è Jenny Jay. Guardate quanto assomiglia a Ilaria, questa artista, no? Non sembra lei, è spiccicata lei. Ve la volevo far vedere, proprio per il gusto di... E lei ha una bellissima voce. Dov'è Ilaria? Ilaria, posso chiederti di uscire un attimo? Non troppo, giusto un poco, e poi puoi rientrare dietro le quinte. E l'errore può essere proprio quello che noi osserviamo lei e come è vestita e come sta cantando e come si sta muovendo. E non comprendiamo che questi ragazzi sono qui per essere trasparenti, qui per essere superflui, qui per svolgere un ruolo che è solo quello di darci un accordo e una prima parola affinché noi possiamo adorare il Re. Io ho un esempio che è calzante, di chi è veramente, secondo me, un worship leader che ogni chiesa dovrebbe prendere ad esempio. Spero di non scandalizzare nessuno, ma questa cosa mi ha colpito la prima volta che sono andato allo stadio. È stato recente, perché non sono mai andato allo stadio, ero già credente, e quando sono entrato in curva, era in curva, ho visto un popolo sfrenato di uomini, per incalzare su questa cosa, e di donne, e di ragazze, e di ragazzi, e di bambini sfrenati. Lì ho cominciato a chiedermi, ma allora non è una questione culturale, non è una questione di compostezza. Noi italiani sappiamo lodare, forse lo sappiamo fare per la cosa sbagliata. E in quella curva ho ascoltato cori cantati all'unisono, senza amplificazione, senza musica. E poi ho visto il worship leader, il capo curva, il capo ultra. E lì, alla punta, a rischio di vita, perché sta lì proprio alla punta, che si mantiene a stento, c'ha tutta la folla davanti, ignora totalmente la partita e non fa altro che dare indicazione a tutta la tifoseria, migliaia di persone, su cosa urlare, come agire. Io voglio farvi vedere qualche foto. Guardate, questa è una foto, questo è un capo ultra. Tutti concentrati sulla partita, tutti lì che inneggiano alla propria squadra. E lui che è lì che incoraggia il popolo a cantare, a sfrenarsi e a incitare la propria squadra. Vediamo qualche altra foto. Questa è particolare, perché vedete, il capo ultra si trova qui con un megafono. E la cosa che mi piace di questa foto è che tutti hanno le loro mani alzate, stanno urlando cori e stanno tifando, ignorando completamente il capo ultra. I loro occhi sono rivolti alla partita, i loro occhi guardano oltre, perché sanno per chi stanno tifando. Non stanno tifando per il capo ultra, non stanno seguendo le sue indicazioni per fare a lui piacere, stanno guardando la partita e stanno tifando per la loro squadra. E guardano oltre, con la coda dell'occhio probabilmente, ogni tanto guardano al worship leader. Io sono tentato dal cambiare completamente la disposizione delle nostre sedie e ribaltarle completamente, in modo tale che noi guardiamo, che so, a Maria lì in fondo, a queste tende nere, e non al gruppo lode, perché noi non stiamo cantando al gruppo lode, perché noi non stiamo seguendo un karaoke di massa, seguendo le parole che ci vengono proiettate per lodare lo schermo. Noi siamo qui riuniti per adorare il Re, per concentrarci su di Lui e guardare oltre Ilaria, e guardare oltre Leo, e guardare oltre Fabio, Melissa, chiunque ci guida, perché siamo qui in adorazione per il nostro Re. Ed è una scelta. La Bibbia dice: offrite sacrifici di lode a Dio. È una scelta, è un sacrificio. È il sacrificio di scegliere di non pensare a quello che gli altri stanno dicendo. È la scelta di dire: io non ho interesse che qualcuno possa dire qualcosa di me. Io sono qui per adorare il Re con un popolo che vuole fare questo. Noi siamo il popolo di Dio, noi siamo i suoi discepoli e noi vogliamo adorare il suo nome. Voglio lasciarvi con un verso. Nel Salmo 147 c'è scritto: lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce. Altre versioni dicono: è cosa gradevole. Non è vero, è una cosa gradevole, è bello adorare il Signore, è bello cantare a Lui, ma non è solo bello e piacevole. Guardate cosa aggiunge, dice: perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. vuoi approcciarti al re, allora riconoscilo, quale re, e riconosci che il modo per approcciarsi a un re, al re dei re, al conquistatore dell'universo, a colui che un giorno tornerà per stabilire totalmente il suo regno e unire a sé tutto il suo popolo, questo re, a questo re si addice la lode e l'adorazione. Vogliamo alzarci in piedi. Vogliamo chiudere i nostri occhi. Io voglio invitare il gruppo Lode a venire. E quello che vogliamo fare ora è adorare il nostro re. E io ti voglio chiedere di non seguire necessariamente le canzoni che verranno cantate, di non vivere questo tempo seguendo necessariamente le melodie, ma canta il tuo canto, adora con il tuo cuore. E forse sei qui questa sera e ti senti indegno e dici: Mirko, io non sono degno di adorare, di approcciarmi al re, io non sono nessuno, io sono macchiato di una serie di peccati, io sono qui e non mi sento all'altezza, io sono pieno di maschere, pieno di cose che mi bloccano dall'adorare il Signore. Io voglio pregare per te, perché la Bibbia dice che dove c'è lo Spirito di Dio, lì c'è libertà. E noi siamo qui riuniti per vivere la libertà dello Spirito Santo. Quindi voglio invitare tutti noi ad alzare le nostre mani, che è un segno di arresa meraviglioso. E se in questo tempo di adorazione senti di inginocchiarti, di prostrarti davanti a Lui, fallo. Se senti di saltare, salta. Ma ora ti chiedo di alzare le tue mani, perché insieme, Gesù, noi ci vogliamo arrendere a te. E io voglio pregare per la nostra Chiesa affinché possa essere un popolo di veri adoratori, un popolo che sa qual è il canto di adorazione che deve cantare, che conosce l'adorazione, sia propria di questo giusto approccio a te che sei il re. Io prego, Padre, che la nostra Chiesa possa essere una Chiesa di Paolo e di Sila, di Davide, che sanno cancellare tutto per concentrarsi su di te e adorare il tuo nome in una maniera sfrenata. Io prego per chiunque questa sera si sente indegno, sporco, macchiato e distante da te. Vuoi tu, Padre, in questo momento toccare le loro vite? Vuoi tu perdonare ogni peccato? Vuoi tu lavare la loro coscienza in modo tale che in libertà loro possano approcciarsi a te e sperimentare la bellezza di adorare il tuo nome? Noi ti adoriamo in questo luogo, Gesù, e vogliamo innalzare te, vogliamo chiedere a te di primeggiare in mezzo a noi e di ricevere tutta la lode, tutta l'onore, tutta la gloria che ti spetta, Gesù. Alleluia. Forza insieme.